voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Vorrei solo vedere Carlo. Allora glielo chiamo. Carlo? Carlo? Oh, come sono distratta. Mi perdona. Carlo non c'è, è uscito, è andato via. Ma venga qua. Venga qua da me. Si accomodi. Mi racconti qualche cosa di lei? Da quanto fa l'ingegnere? No. Signora, io sono pianista. E io sono attrice. O meglio, ero attrice. Guardi quelle foto. Che ne dice? Ero brava o no? Ho deciso un inizio tutto italiano per quanto riguarda la quarta parte di Eclettica di questa settimana. Abbiamo aperto con una band romana che, anche oggetto di pillola, è arrivata all'esordio dopo 3 anni, per cui ha fatto tanto parlare di sé. Si sono accasati presso la Home Sleep Records in uscita con I'm the Creature Introducing the Liquid Pets, era invece il titolo del brano che ci siamo ascoltati da parte dei romani My Scars. Vi dicevo che si rimane in Italia, ci si sposta da Roma a Milano, in questo caso è ancora poco più che un'autoproduzione, quella dei Pink Rays, Da Flirts e Abstract Love. They pass through other lines. but you, and nobody else but you. Come faceva il vento a essere tanto forte a tanta distanza dalla costa, che i ciclisti diretti in città nel tardo pomeriggio sembravano piuttosto marinai in pericolo? Questo avveniva nella direzione di Cambridge, su, per la Mill Road, oltre il cimitero e l'ospizio di mendicità. Negli spazi aperti a sinistra, i salici erano stati piegati, spinti e scossi dal vento finché i rami non avevano ceduto e giacevano sparsi sull'erba fradicia, sussultando convulsamente e trascinandosi dietro caterate di ramoscelli. Le mucche erano impazzite a forza di buttare in aria le argente e foglie pendule che d'un tratto, in netta contraddizione con ogni loro esperienza, erano disseminate da tutte le parti. Sulle corna avevano festoni di rami di salice. Così, impedite nella vista, inciampavano e cadevano. Questo era l'incipit del Cancello degli Angeli di Penelope Fitzgerald. Profumo di Eclettica. Che importa ormai? Mi consolo suonando il piano. E lei lo suona il piano? Eh? Il piano? Io faccio il pianista. Oh, ma è una magnifica combinazione! Un ingegnere pianista. Senta, le va un duetto? Mm-hmm. Yeah. Devo recuperare un po' di brani che vi siete ascoltati senza che io vi annunciassi che cos'era in effetti quello che vi siete ascoltati. D'altronde ho voluto dedicare tanto spazio alla musica, c'era ancora un filo da tirare con un dialogo di Profondo Rosso e quindi ho preferito comportarmi in questo modo, a partire dai milanesi Yellow Capra, che avevano seguito i precedenti sempre milanesi Pink Raise, Yellow Capra, che ci siamo ascoltati con Traffic, per passare poi al profumo di Eclettica di questa settimana, Profumo di Eclettica che va a ripescare nelle vecchie playlist del passato i brani che le avevano caratterizzate per lunghi periodi, come Come to Daddy di Aphex Twin, un disco della Warp Records del 1997, quindi quest'oggi in Eclettica, questa settimana in Eclettica, siamo tornati indietro a quell'anno. E poi ci siamo riascoltati il primo brano che io avevo estratto dall'album di esordio degli Eagle Seagull per la Lado Records. Siamo, è vero, passati recentemente su un altro pezzo, Photograph, però non mi è parso una cattiva cosa ritornare su Your Beauty is a Knife I Thorn on My Throat, brano che si è appena chiuso. Ed ora invece è la volta della calda voce che ritorna dopo qualche settimana di assenza di William Elliott Whitmore, The Song of the Blackbird. Questa è Take It on the Chin. Thank you. You è il titolo del brano con cui si chiude l'intera settimana di Eclettica, la numero 10 in termini di settimane nella 13ª stagione di Eclettica. Giulio Caperdoni è arrivato ai saluti sulle note degli L, un brano, And You, estratto da Be Strong, quello che è il loro ultimo album per Ultovox, un album che non mi ha così convinto come il precedente. Alla prossima!